Tempo di sport con Carlo Genta. Oro alla patria, come avete sentito, lo porta Simonetta Lamantia, bravissima Simona Lamantia, bravissima agli europei indoor di Parigi, 14,60, miglior prestazione mondiale della stagione. Ciao Andrea Zorzi. Ciao, ben ritrovati. Che saltone, Poi il triplo, ragazzi, è uno spettacolo unico. Quindi arriva con questo, si apre con questo oro il pomeriggio. Tra l'altro abbiamo pomeriggio dello sport che vive nell'attesa, sapete, siamo alle porte di Juventus-Milan, si apre così, però ne abbiamo tanti che stanno andando bene, anche la Di Martino ha saltato bene, insomma, come sappiamo, reduce da un record importante. Ed è un buon segnale, perché poi l'atletica rimane in ogni caso la regina degli sport, quello sforzo apparentemente semplice che ha a che fare direttamente con le qualità fisiche. Noi non siamo sempre stati ad altissimo livello, anche se ci guardiamo indietro quando eravamo giovani noi altri, ti ricordi alcuni grandi campioni che ci hanno permesso di amare a fondo l'atletica. Sì, settimana scorsa abbiamo parlato dei luoghi, delle partite che ci hanno segnato, no? Dei gol, dei momenti di sport che hanno segnato la vita, che hanno punteggiato la vita di ciascuno di noi. Vabbè, anche nell'atletica qualche flash che ci riporta a luoghi e persone ce l'abbiamo. Tra l'altro, se i radioascoltatori volessero continuare a mandarci indicazioni sui loro momenti dello sport o luoghi dello sport, soprattutto dalle regioni del sud. Ah sì? Sì, perché... Poi spieghiamo perché, sì. In una delle prossime puntate, cosa dici? Bella giornata oggi per parlare con Franco Arturi, vice direttore e voce della coscienza rosa della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Grazie, per fortuna di coscienza ce ne sono molte nel mio giornale, quindi non sono isolato certamente a rivestire questo ruolo. Ti piace però, più grillo parlante? Metti un secondo, dimmi. Voglio fare una annotazione semicuriosa sulla notizia bellissima con cui avete aperto la trasmissione, cioè con l'oro di Lamantia. A pochi giorni dal 17 marzo, che sancisce di fatto il 150° anniversario della Repubblica, questo oro è un oro della Repubblica, perché questa ragazza è figlia di un'alta tesina ex azzurra, Buschleckner, e di un palermitano, Lamantia, e viva il suo oro, anche se purtroppo, per fortuna, non lo so, molti, quasi tutti, preferiscono giocare a pallavolo o pallacanestro, e questo spiega molto della crisi dell'atletica. Cosa dice Andrea? Ma intanto che è molto interessante unire l'Italia geograficamente, non solo in un lunghissimo abbraccio dal Trentino Alto Adige, quindi dall'Austria fino in fondo alla Sicilia, e poi che torniamo sempre a un nocciolo, quello critico, e cioè che c'è pochissima abitudine a pensare per più sport, a praticare più discipline, e fin da giovanissimi si è più o meno costretti, certamente non abituati, non c'è grande accessibilità, a fare esperienze diverse. Quindi si devono correre dei rischi altissimi quando si è giovani per fare una scelta e decidere se ti piace la pallavolo, il calcio, l'atletica, il nuoto. È evidente che quando si è giovani si tende a cambiare idea, si scopre anche cosa sei più bravo a fare, certo, e si va avanti dove sei più bravo, perché ti piace di più. Però in Italia questa opportunità, questo equilibrio di opportunità non esiste, e fa sì che molti atleti potenzialmente forti in altre discipline non possano mai diventare tali. Equilibrio è la parola chiave, difficilissimo da trovare. Un dinamico equilibrio tra varie discipline sarebbe un po' complicato. Equilibrio difficile da trovare anche nel calcio, direttore. Siamo alle porte di uno Juventus-Milan dai significati, dai mille significati, anche paradossalmente, insomma, più importante per la Juventus, che potrebbe decidere un po' del suo futuro. Sono tutti lì a guardare cosa succederà. Secondo me sarebbe un errore comunque cambiare allenatore, quindi ributtare via tutto di nuovo anche in caso di sconfitta. Ma su questo sono d'accordo, sono un po' meno d'accordo sul fatto che la partita sia più importante per la Juventus, perché con un Inter che perde ben pochi punti per strada, se il Milan psicologicamente e anche riguardo al suo calendario, che è tutt'altro che semplice, dovesse fare un passo falso, un mezzo passo falso, anche la lotta per lo scudetto potrebbe averne dei contraccolpi importanti. Quindi è una partita decisiva per entrambi, e comunque sono d'accordo in linea di principio sul fatto che cambi di allenatori in queste condizioni hanno più svantaggi che vantaggi. Inoltre sono sempre dell'idea che di fronte a stagioni non felici o semifallimentari le responsabilità debbano essere suddivise su vari fronti e non soltanto sulla voce allenatore. Sì, certo. A proposito di equilibrio difficile da trovare, ieri mi chiama un amico juventino e mi dice: ma sai che non so per chi tifare? Dinamiche di tipo un po' perverse, con gli interisti che tifano Juventus o che simpatizzano Juventus, a cominciare da Moratti stasera, gli juventini che non vorrebbero vedere un altro scudetto all'Inter, dinamiche un po' da Palio di Siena, che però ci stanno, secondo me. Dipende fino a che punto. Ecco. Questo è chiaro. Se sono limitate a un... vabbè, pazienza, se non posso vincere io, a meno che vinca un semi-amico o un po' meno avversario, questa è una cosa assolutamente... normale. Se ci riferiamo alla parola equilibrio, tutto sta a capire fino a che punto si porta questo tipo di tribalità del calcio. Tra l'altro Carlo rischia grosso abbinando equilibrio ai tifosi. Sono due parole che non possono stare contraddizioni, scappano proprio una dall'altra, quindi sì, chiedere equilibrio di valutazione a un tifoso mi pare veramente un'opera piuttosto complicata. Direttore, equilibrio ce n'è poco anche a Madrid, tempi duri per gli stregoni della panchina. Non ho capito bene la storia di Mourinho, ma mi sembra grosso modo una montatura che poi magari andremo a cercare di scoprire. Però Ettore Messina che lascia sul tavolo un contrattone, all'improvviso va via. Ettore Messina lo conosciamo benissimo e sappiamo che non fa le cose così per caso o di impulso. Ambiente comunque molto difficile quello. Direi di sì, per tutti, come succede nei grandi club che hanno eccessiva urgenza di vincere ad ogni costo. Io non ho capito molto né della vicenda Mourinho e diciamo nemmeno di quella Messina. Non voglio fare dietrologie perché sarebbe sbagliato, ma di certo non si è capito assolutamente nulla di questo episodio violento, semiviolento, che molti media spagnoli non hanno nemmeno preso in considerazione per una piccola notizia e che noi abbiamo dato doverosamente con tutti i punti interrogativi del caso e che comunque nemmeno Mourinho ha chiarito nella sua conferenza stampa. Dico, certo, se parliamo così dell'aspetto del modo di gestire la psicologia della squadra di Mourinho, si rimane perplessi, ecco, perché individuare un nemico ad ogni costo molto spesso non è una carta vincente, o può esserlo soltanto nel breve periodo. Mi pare poi che l'ambiente spagnolo sia molto meno ricettivo del nostro per queste continue crociate più o meno comprensibili. Volevo chiederti ancora una cosa prima di salutarti, direttore. Visto che tra poco io, Andrea Zorzi, gli ascoltatori, immagino parleremo anche un po' di rugby, come facciamo ogni sabato in epoca di Sei Nazioni, volevo un tuo pensiero su quest'Italia che non vince mai. Ma si può vivere nello sport e vivere anche bene, con tanti soldi, come sta facendo il rugby in questo momento, senza vincere mai? È una bellissima domanda, cioè il Sei Nazioni dal punto di vista dell'Italia e forse non solo dell'Italia è una specie di sereno e bellissimo delitto perfetto, nel senso che porta una grande promozione per questo sport, direi assolutamente meritata, porta un fiume di denaro, non porta successi se qualunque nazionale avesse i risultati che ha l'Italia negli ultimi 12 anni o 13 di Sei Nazioni, credo che siano 47 sconfitte, 7 vittorie, un pareggio, cito a memoria, salterebbero presidenti federali, allenatori ogni 5 o 6 mesi. Diciamo insomma che è una bella operazione di marketing, evviva il rugby. Io sul rugby vado bene, non parlo di Italia in particolare. Mi piacerebbe che la Federazione Internazionale ci facesse vedere, oltre che questi straordinari spettacoli di pubblico, di tecnica e di agonismo, anche un bel programma serio di antidoping. Io vedo questi campioni, li paragono a quelli di 15 o 20 anni fa e mi sembra di vedere due specie animali differenti, con tutto il rispetto per le persone. Io qualche domandina me la farei. Dopodiché, essendo italiano, mi auguro che prima o poi il rugby italiano faccia uno scatto tecnico per arrivare a qualche vittoria. Dicevo delitto perfetto anche perché finora le cose sono messe in maniera tale che le altre 5 partecipanti delle generazioni stanno più o meno prima di cominciare, salvo eccezioni, certo. chi sarà ultimo, ecco, chi avrà questo maledetto o benedetto cucchiaio di legno, whitewash, che significa poi perderle tutte o arrivare ultimo. Grazie direttore. Grazie, grazie davvero. A voi. Arrivederci. È sempre un piacere. Nuovo. Franco Arturi, adesso sentiamo il traffico e poi ne parliamo, perché mi sembra che, come dice Andrea, il direttore ne ha lasciati lì un po' di temi. Sì, ha seminato... Che miseria. Speciale 6 nazioni. Di segnalazioni parliamo e parleremo ogni sabato e ogni domenica fino da qui alla fine, ultimo weekend di tregua come sapete, poi la settimana prossima noi abbiamo la Francia e poi chiuderemo in Scozia nel disperato tentativo di evitare quello di cancellare, di lavare, proprio di whitewash, quello zero. Andrea Zorzi, certo che il direttore ci è andato giù piano su alcuni temi da Mourinho a... Ma devo dire che è stato molto interessante, perché oltre ad aver toccato il tema di cui più volte si è parlato, di questa asimmetria, di questa ingiustificata tensione per quanto riguarda i risultati del rugby, che come sport e come portatore di valori invece si merita totalmente, però ha introdotto un tema di quelli molto importanti legato al doping. Ora, è vero che questi giocatori sono veramente molto muscolosi, sono particolarmente forti, se paragonati ai giocatori di qualche anno fa, uno qualche dubbio può averlo. È vero che le stesse tecniche di preparazione sono cambiate moltissimo, gli infortuni ci sono, è vero che l'aggressività è un altro tema molto importante nel rugby, però per davvero io qua non ho la più pallida idea, perché non conosco quasi nulla. Ho una mia personalissima idea, che è un po' semplice, legata al fatto che quando uno sport è prevalentemente di performance fisica, ci sono alcuni prodotti del doping che possono essere decisivi. Se fai uso di doping vai più veloce e resisti di più. Atletica, ciclismo, canottaggio, senza fare alcun tipo di insinuazione, solo per esemplificare. In alcune discipline l'utilizzo del doping risulta veramente predominante. In discipline di squadra e con tecnica e con sport di situazione, una buona prestazione fisica è certamente molto utile, molto importante, ma non è sufficiente per vincere, perché poi alla fine, nel caso del rugby, se non c'hai la manualità con il pallone, certo, e non vai da nessuna parte. Come nel calcio, come nel basket. Correre di più, un po' più a lungo degli altri, essere più forti può aiutare, ma non è sufficiente per vincere. Certo. 800240024, numero verde che non avevo ancora dato, lo faccio subito per chiacchierare con nome di tutti i temi che volete. Per rimanere un attimo lì, nella pallavolo, dove si è spinta questa evoluzione della specie rispetto ad esempio a 20 anni fa? Cioè, quanto sono migliorati fisicamente i giocatori di pallavolo? Quanto più tanto. In alto saltano? Quanto più forte schiacciano? Quanto? Saltano di più. La palla è molto molto più veloce. Sì. C'è poi un cambio anche di ruoli, cioè l'inserimento del libero. Questo giocatore un po' più basso, che si occupa solo di fondamentali in seconda linea, è come se avesse permesso l'iperspecializzazione di altri ruoli. E quindi i centrali sono diventati ancora più alti, perché in seconda linea non devono mai difendere, e ci troviamo con giocatori che sono poco universali, poco completi, ma che davanti a muro sono efficaci, sono micidiali. Questa iperspecializzazione per alcuni aspetti ha reso la pallavolo molto più... nel fondamentale singolo di più alto livello, manca un po' quella completezza che secondo me ha caratterizzato invece lo sport di qualche anno fa. Fisicamente è cambiato moltissimo la preparazione, la prevenzione, qualche infortunio in più, soprattutto sì, legato al fatto anche che il rally point system, quindi abolito sì, il cambio palla, ha aumentato i ritmi e la tensione della partita, e quindi si parte subito a 100 all'ora e si finisce a 100 all'ora. Una volta fino al 10 pari giocavi come se tu fossi un diesel, poi rizzavi le orecchie e gli ultimi 5 punti erano importanti. Adesso non è più così. Chiarissima, molto interessante. Giacomo Magnasco, buongiorno. Buongiorno Carlo, interessante davvero. Senti, una settimana di tempo per allungare la coperta corta, o andiamo bene in touche, o andiamo un po' meno bene in mediana, sistemiamo un po' la mediana, continuiamo ad andare male in touche, insomma nei calci non bergamasco è sempre abbastanza ondivago. L'Italia somiglia a una coperta corta. Sì, l'Italia somiglia a una coperta corta, a volte però diciamo che in alcuni casi forse la coperta ce l'avevano strappata del tutto, è successo contro l'Inghilterra, in altri casi invece ci sono stati dei momenti in cui sembrava che anche la coperta degli avversari non fosse granché. Certo, il rimpianto per la partita con il Galles persa, lo ricordiamo, sabato scorso 24-16 è forte, anche perché c'è il dato dei calci sbagliati da Bergamasco, c'è il dato di alcune azioni che sono fallite per un non nulla, ma poi c'è il dato veramente impressionante che riguarda la presenza degli azzurri nella metà campo avversaria nel secondo tempo, 34 minuti. Ecco, questo è il problema grosso. Ci rendiamo tutti conto che se il Galles fosse stato per 34 minuti nella nostra metà campo avrebbe segnato, avrebbe scavato un fossato veramente significativo. Questo a noi è mancato e ci sono vari motivi. Sicuramente in questo caso la coperta è stata corta anche dal punto di vista dei calci, questo è poco ma sicuro. Vedremo delle novità con la Francia? Ma guarda, io credo che potrebbe esserci anche un po' di turnover, perché oggettivamente io non vedo possibilità di successo in questo confronto con i francesi, che per dire contro l'Inghilterra 7 giorni fa hanno perso 17-9 a Twickenham, però giocando si può dire alla pari. Ci giochiamo tutto in Scozia, una Scozia che sembra di nuovo un po' ridimensionata da questo torneo, ma sicuramente è arrivata con risultati migliori dell'Italia, una Scozia che, lo sappiamo, qui potremmo parlare forse più di cultura e di mentalità, non di DNA come ha fatto un ascoltatore un po' di tempo fa, però di cultura e di mentalità. È una squadra che non ha molte occasioni di vincere, così, e in questo è pari all'Italia, però nella giornata in cui capisce che può vincere riesce a dare il 100%, e così questa squadra, che non è una squadra tecnicamente formidabile, però in questi anni si è presa le sue soddisfazioni nelle Sei Nazioni, anche con l'Inghilterra, anche con l'Irlanda, anche con la Francia, e nelle ultime due stagioni in casa, nella sua giornata, nella giornata fortunata, nella giornata in cui gli avversari l'hanno presa sotto gamba, mettiamola come vogliamo, però ha battuto prima il Sudafrica, campione del mondo, e poi l'Australia, e questo la dice lunga. Sì. Grazie Giacomo, ci sentiamo comunque nel prossimo weekend, quando avremo anche la partita da commentare. La differenza è che gli altri giocano con la speranza di farcela, a noi capita raramente. Per esempio la Francia abbiamo battuto una volta nel Paleozoico a Grenoble, quando ancora non eravamo nelle Sei Nazioni. Ci sono squadre che non abbiamo mai battuto, come l'Inghilterra, lasciando stare quelle dell'altro emisfero. Ma io ti prendo alcuni commenti fatti a Sky qualche tempo fa giocando con l'Inghilterra, e si sorprendevano del fatto che in quella partita l'Inghilterra, invece di gestire il vantaggio e il risultato, ha spinto sull'acceleratore fino in fondo. Credo che il rugby sia uno di quegli sport che ti permette un po' di modulare, visti anche i rischi di farsi male, vedi un po' la partita come butta e poi riesci un po' a gestirla. Questo potrebbe essere un altro tema, perché evidentemente alcuni risultati sono figli più che altro di questa gestione delle risorse, più che di un gioco con l'acceleratore a tavoletta. 800 24 00 24. Vedi Andrea, io ho chiesto ancora agli ascoltatori, insomma, momenti di bandierine sportive della nostra vita, mi arrivano delle cose incredibili, bellissime. Senti questo: ciclismo, salita del blockout sulla Maiella, hanno vinto Merckx, Fuente, Basso, per dirne solo alcuni. Ogni volta uno spettacolo immenso. Questo è Paolo da Pescara. Ce n'è un altro di Marco che scrive: due avvenimenti su tutti. Benvenuti Griffith, cronaca alla radio alle 3 di notte con mio padre. Il Tour de France di Felice Gimondi, sempre alla radio, sotto l'ombrellone del Cursal Santa Margherita a Varazze. Cursal Margherita a Varazze. Allora, secondo me ci sono due segnali fondamentali. Uno, che la dimensione nella memoria che prende un ricordo di questo genere non è proporzionale all'importanza dell'evento. Assolutamente. O non sempre. Assolutamente. Secondo, che c'è un'età nella nostra vita che spesso coincide con la prima adolescenza o poco prima, che ci segnano per tutta la vita, forse perché, come si dice la settimana scorsa, rimane più a lungo nella nostra testa e quindi si consolida un po' di più. Terzo, in un momento nel quale non siamo assediati da una migliaia di eventi, possiamo aspettare che arrivi un evento, godercelo, e poi digerirlo un pochettino, e questo permette a quell'evento di occupare un po' di spazio. Adesso vengono spazzati via in continuazione dall'ultima cosa che arriva, che è utilissima per le televisioni e per i media, un po' meno per la nostra memoria. Certo, visto che parleremo anche dei luoghi dello sport, i tuoi luoghi dello sport quali sono? I miei personali sono dei palazzetti. Sono naturalmente ma quali? Il Globe Arena di Stoccolma 89, sì. E poi il Maracanesigno a Rio de Janeiro nel 90, però sono molto molto personali. Per quanto riguarda i luoghi, io un ricordo bello che è il Santiago Bernabéu nell'82, la mia prima trasferta come pallavolista. Siamo andati a giocare un torneo, una Spring Cup, una Coppa Primavera, e al giorno libero si andò a vedere Real Madrid contro Atletico Bilbao in questo mare di gente, e quindi fu uno dei luoghi a cui sono più legato. Certo che Madrid, noi ci lamentiamo tanto della pressione, poi cosa facciamo, anche quello su Mourinho, Messina eccetera, che è interessante. Noi ci lamentiamo tanto della pressione cui lo sport italiano è sottoposto, no? Mediatica, di attenzione, di tifosi eccetera. Però guardi bene anche a Madrid di cosa ne succede, a prescindere da questa storia di Mourinho che ancora non è chiara, ancora un po' misteriosa. Però hai una, i nostri cugini, come spiega Ettore Messina, hai una discreta pressione anche lì, eh? I nostri cugini iberici sono piuttosto bravi, devo dire che anche i toni nei giornali, nei media, sì, sono particolari. Gli inglesi li trovo un po' più fastidiosi perché i loro titoli di giornali sono di un'ironia tagliente che a me come italiano veramente disturba moltissimo, anche perché poi forse proietto su quei titoli questo atteggiamento un po' presuntuoso, un po' arrogante degli inglesi. Quindi quando mi capita di leggere qualcosa sulla Premier League e sui loro titoli, soprattutto se sono titoli verso l'Italia, un po' parto con le unghie fuori. È però vero che poi c'è anche lì un limite, si può essere ironici talvolta in alcuni paesi latini, quindi Italia e un po' la Spagna, è come se si cercasse qualunque tipo di ragione vera o non vera per creare la polemica. Questo è totalmente tempo sprecato. 800240024 per parlare con noi, messaggi 349-238-6666, breve pausa. Devo dire che sui momenti dello sport, caro Andrea, i nostri ascoltatori sono bravissimi, perché tirano fuori cose molto divertenti, come questa, non so se posso leggere questo messaggio, ma non mi importa, lo leggo lo stesso. Finale di Champions, Barcellona-Milan 0-4, vista a Cannes col mio migliore amico e due fanciulle, una gnocca e l'altra molto meno. Ogni gol del Milan un bicchiere di Beaujolais. Alla fine, ambriaco completo, immaginate su quale dovevo fatto colpo. Non dai identità, quindi... Riccardo da Vigevano. Allora gli vuoi male? Sì. Invece no, questo più, così, più classico, molto bello, di Stefano. La settimana, momento personale, no, di sport, la settimana d'attesa, neanche l'incontro, la settimana di attesa per l'incontro Foreman Ali. Io ragazzino a divorare la Gazzetta tremando per la sorte di Ali, che tutto e tutti davano perdente. L'attesa, equilibrio e attesa. Oggi due parolone, due keywords. Non fosse per Riccardo saremmo quasi filosofi. Giovanni, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Pronto? Pronto, la sento. Il massimo è sentire la radio al telefono. Sì. Allora, il ricordo più bello è... Fatta al Verona cos'era? 1983-72. Sì, una roba io così. Io tifoso milanista, città satellite, vabbè, tipo... come che si può dire? Gardaland di 30 anni fa. No, tifoso milanista, primo tempo 3-1, vado a casa, tac. Due amici tifosi juventini, sì. Macchina tappezzata, sì. 5.000, sì. Tappezzata di bandiere juventine. Io tifoso milanista non mi sono mai divertito così tanto come quella volta lì. 1973 73. E il massimo dalle di bidere, un divertimento, clacson, cortei. Senta, ma prego. Lei da tifoso come la vede questa storia, questo intreccio di tifo e controtifo sulla partita di stasera? Gli interisti che tifano Juventus turandosi magari il naso, e gli juventini che magari dicono però se vince il Milan non becca lo scudetto l'Inter. Sì, sinceramente, ascolto. Lei c'ha gli zozzi di fianco, sì, no? Sì. Io sono un appassionato di pallavolo femminile, sì. Che è l'unica cosa che si può vedere, perché maschile sono diventati tutti boscaioli. Boscaioli? No? Significa che picchiano, sì, forte e basta. Nel senso che chi tira più forte vince, è lo stesso nel calcio. Non si riesce più a vedere una partita di calcio. Partita di calci e basta. Boscaioli. Le faccio rispondere da Andrea Zorzi, Giovanni. Prego, resto al telefono? Ma no, può anche appendere, basta che accenda la radio. La radio è spenta ormai. Bene, bene, bene, bene, grazie Giovanni. No, comunque... Dica. No, niente, cioè, non si vede più una partita a pallacanestro, cioè, quelli che eravamo abituati. Io, Boscaioli, quasi un mondo di Boscaioli. Giovanni, le faccio rispondere da Andrea. Condivido che alcuni sport, tra i quali c'è la pallavolo maschile, sta subendo un po'... l'incremento della forza fisica e quindi in alcuni casi i gesti sono anche belli, ma è difficile da apprezzarli perché è talmente veloce che solo un occhio esperto ne coglie la completezza. Per il resto vedi la palla che schizza a 100 all'ora e la palla che finisce giù in pochi secondi. La pallavolo femminile invece mantiene ancora questa godibilità legata questa alla grazia, palla. Tu dici. Parlavo del gioco, ma non Zaridi. Solo. Parlavo. E quindi è vero che in alcuni sport c'è troppa forza fisica e questo va contro la possibilità di vedere gesti esteticamente apprezzabili. Questo però fa parte di alcune fasi alte e basse degli sport. Nella storia degli sport, alcuni momenti in cui sembra che la forza sia predominante, poi magari si riesce a controllare la forza così bene che diventa anche un bel gesto apprezzato da tutti. Boscaioli comunque. Alcuni sport sono un po' troppo boscaioli. Ci mettiamo anche il tennis? Io sì. Diciamo così che solo pochissimi grandi atleti, pur essendo fortissimi, hanno anche una tecnica. Federer è uno che mena come un fabbro, però... Sicuro. Federer lasciamo stare. Poi poi c'è una grande fascia di giocatori intermedi che sono così bravi, sono così alti in classifica, principalmente per la forza e non per la tecnica. Nel caso del tennis mettisi anche la racchetta, che è un attrezzo che è cresciuto moltissimo con la tecnologia. Però Nadal è un boscaiolo. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ciao Filippo. Filippo non c'è dalla Spagna, adesso lo recuperiamo, io spero, perché sono curioso di sapere se questa di Mourinho è tutta una bufala, come pare, è tutta una grande montatura dei media spagnoli o c'è qualche fondo di verità. Certo che Mourinho non ha attecchito tanto in Spagna, non piace più tanto. Gli chiediamo anche di inquadrarci un po' questa sfida all'ultimo sangue tra Madrid, la capitale, e Barcellona, che è questa... Ma sai, come ti dicevo prima, soffrono come cani, no? Sono inferiori in questo momento nel basket, nella palla e nel calcio, e soffrono, potessero, comprerebbero quella dannata coppa, quella dannata liga, ma solo la dimostrazione lampante, pur potendosi permettere tutti i giocatori che vogliono, che nello sport per fortuna non si improvvisa poi più di tanto. Filippo, ci sei? Eccolo qui. Allora, hanno tentato di dargli una coltellata a Mourinho oppure no? Ma che coltellata? Ma per favore. Ma fateci il piacere. Forse una penna Bic. Sì, qualcosa, non si capisce. Comunque la cosa più interessante di tutto questo non è l'episodio in sé, che è una buona stupidata, però è perché esce, dove esce, in che momento, la reazione di Mourinho. Sì. Queste sono le cose interessanti, perché l'episodio in sé non è rilevante, però perché lo tirano fuori con questa rilevanza, poi dopo voglio dire in Spagna non si sono filati, stamattina non era presente in nessun giornale. Questo per darti il tono. Sì. Però Mourinho, quando l'ha saputo, si è arrabbiato. C'è un conflitto con Florentino Perez. Sì. E insomma, la situazione è tesa. Ma io non riesco a capire cosa c'è di politico in tutto questo. Cioè, mi sfugge tutta un'intera vicenda. No. Allora, il problema è che con l'arrivo di Mourinho, il Real Madrid, club muy querido, no? Di Spagna. E sta perdendo appeal, sì. o meglio si sta creando nemici ovunque, e questo non sono abituati, la cupola della Casablanca soffre. L'ultimo episodio è quello di Malaga, dove tra l'altro Florentino ha interessi economici forti, la patria di Juanito, un posto dove, diciamo, se non si tifa Malaga si tifa Madrid. Adesso non li possono vedere questi ragazzi vestiti di bianco. È successo già a Gijón, Screzzi, con il Levante, con una squadra piccola, insomma c'è un clima di tensione che a Mourinho piace molto, però Florentino lo guarda con crescente distacco e preoccupazione. Hai capito, Andrea? Beh, questo è uno dei rischi del dividi e cerca di controllare In questo caso poi Mourinho è un maestro sia della strategia dell'assedio, di trovare le buone ragioni per trovare nemici. Credo anche che ci sia un aspetto anche molto più semplice, che poiché Mourinho è molto ingombrante come immagine, i presidenti abituati ad avere grandi spazi si trovino a dover condividere con lui anche gli spazi disponibili, e questo non gli fa molto piacere. Ricordo Moratti, per esempio, a Milano, non poteva dire nulla perché alla fine hanno vinto tutto, ma quando c'era Mourinho i microfoni sotto Moratti erano un po' di meno. Questo senza arrivare a dire che è stato Valdano a tentare di accopparlo, perché però, però questo discorso sull'immagine e sullo spazio vale fino a un certo punto, perché Florentino, da quando è tornato nel suo secondo mandato, viaggia dietro le quinte. Cioè non ci sono interviste, non ci sono apparizioni pubbliche, no, il problema è che Mourinho dà un'immagine incendiaria alla quale gli spagnoli non sono abituati. Sì. Lui ha esportato il modello italiano in un paese che non è ancora pronto. Sì. Avrai letto, Filippo, tu sul tuo giornale, la Gazzetta dello Sport, l'intervista di Luca Chiabotti a Messina, che dice: Madrid non è un posto dove senti la spinta, che c'è una missione comune da compiere, c'è divisione, impazienza cronica, l'incapacità di vedere oltre la singola partita, la necessità del risultato subito e a tutti i costi, non sono capace di allenare senza condivisione di un progetto, così divento l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Sì, oggi l'ho visto, sono andato alla conferenza stampa di addio di Messina, e ha ragione, il Real Madrid è schiavo di se stesso, perché qui dice bisogna vincere tanto, però se uno guarda quello che hanno vinto negli ultimi 20 anni, casinada, come dicono qua. Allora, c'è l'ossessione della vittoria, però non ci sono neanche i mezzi, perché è vero che a Messina gli hanno comprato tanti giocatori, però è sempre il figlio di un dominore il basket all'interno del Real Madrid, e quindi non c'è programmazione, sì, si porta Messina, e quindi portando Messina si è già vinto teoricamente, sì. Poi in realtà c'è da fare tutta la squadra, ma tutto, certo, un lavoro, ma certo. Poi il problema se Mourinho ha dei problemi con Florentino Perez, Messina li ha avuti forse anche più grandi. Allora, Messina, sì, Florentino quest'anno non è mai andato a vedere Real Madrid di basket, salvo nella finale di Coppa del Re, dove hanno perso col Barcellona. Sì, hanno perso col Barcellona, e tutti qui si sono scatenati sul fatto che a fine partita Messina va vicino al palco, saluta Florentino che lo ricambia con una freddezza assoluta, e invece Rosell, presidente del Barça, lo saluta con grandi effusioni. E la cosa è stata notata, perché voglio dire, comunque il Real Madrid aveva fatto la sua figura. Di nuovo, come succede nel calcio, il Real Madrid deve lottare contro un Barcellona stratosferico. Certo, certo. In quella finale di Coppa del Re si erano avvicinati, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, poi hanno perso. Però la freddezza cosmica del signor Perez non è passata inosservata, e probabilmente neanche a Messina. Certo, certo. Una domanda velocissima a Filippo Maria Ricci, relativamente al fatto che ha definito la Spagna non pronta ad accettare ancora questo clima incendiario che invece caratterizza Mourinho, e invece l'Italia su questo è più avanti, o meglio, è messa peggio. Se mi spieghi meglio questo concetto. Beh, insomma, qui non ci sono moviole. Qui non ci sono trasmissioni, diciamo, di calcio parlato. I giornali discutono un po', ma poi si fanno abbastanza gli affari loro. Arriva uno come Mourinho e dice che al Malaga non ci andrò mai, perché il Malaga è una squadra di Ferrari, non si può dire. Magari è una verità, non è che ti dico di no. Però è una cosa che non si può dire. E in generale diciamo, non sono pronti a tutte le polemiche che fa Mourinho, che sono tante. Sì. Cioè, qua si vuole parlare di calcio. Certo, certo. E certo, l'accusa certo è che Mourinho non vuole parlare di calcio. Certo, e non può neanche dire quello che pensa, come faceva sempre in Italia. Filippo, ti ringrazio, domani doppietta, ci sentiamo domani sera, eh? Sì, perché bisogna parlare di cacà, eh? Quello sì che è il problema di Mourinho, mica i coltelli. Bisogna parlare di cacà, di Cristiano Ronaldo infortunato, di un sacco di cose. Quindi esatto, appuntamento domani sera, non bruciamoci tutti gli argomenti. Grazie, grazie. Non mancano mai, benissimo. Abbraccio, Filippo, a domani. Ciao. Traffico, siamo in ritardo, poi torniamo. Mentre io raccolgo messaggi da ogni dove su vostri momenti sportivi, l'argomento vi interessa molto. Andremo avanti, nelle prossime puntate del sabato, perché anche a me intrigano queste bandierine sportive piantate nella nostra vita. c'è Alex da Taormina, Italia Olanda 3-2 semifinale World League 91, l'Italia perdeva 2-0, 14-10 match ball che rimonta, vero Zorzi? Certo, quella, 91, quella me la ricordo, io non ero ancora nato il 91, vedete quella be- dai là su. Quella me la ricordo moltissimo. Margutti fece un 10 su 10, entrò in campo al posto di Bernardi, credo di Cantagalli, 10 su 10, da paura. Da paura. Da paura. Senti, ma hai sentito in Spagna quanto ci raccontava Filippo? Lì Mourinho non attacca, non attecchisce perché gli manca l'humus, no? la polemica, la stampa, la televisione, i mille dibattiti, gli manca. Infatti ne esco con un'idea un po' diversa. Pensavo che fossero un po' più simili a noi anche nell'accettare la polemica fine a se stessa, invece non è così. No, porta si vede poco. Che anche qui è... io ti ho parlato di vorrei dare una bella immagine e battersi a vicenda a Barcellona e Real Madrid. Ti ho parlato a volte dell'antropologia degli sportivi a livello mondiale. Sì. Se parlassimo di giornalisti, tu sai ormai il mio amore spassionato per il Giappone. Sì. A fine partita i giornalisti giapponesi chiedono: "Scusi, ma quando in zona 2 in posizione P4 batteva il numero 12 e lei aveva la mano spostata un po' a sinistra, è una tecnica speciale studiata per questi avversari o è solo un caso?" Ti giuro, questo è il tenore delle domande che fanno i giornalisti giapponesi. Quelle che facevano a Massimo Chiesa quando arbitrava. Ciao Massimo. Ciao Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ti facevano... no, a dire la verità mi chiedeva soltanto perché avevo sbagliato il non concesso, no? Ho visto male un qualcosa, in positivo quasi mai niente, devo dire. Senti Massimo, notizia di oggi, l'International Board finalmente ha ceduto e agli europei del 2012 vedremo 5 arbitri in campo. Mi dici finalmente o dici qualcos'altro? Ma finalmente non completamente, Carlo, tu lo sai come la penso. Sì, io certo. Sono più a favore per certi tipi di situazioni di tecnologie assolutamente sicuri, non per sicure, non parlo tanto del fuorigioco come abbiamo discusso ampiamente altre volte, quanto del gol non gol, che mi sembra veramente un reiterare errori, sì, perché sì. Il discorso della segnatura o meno di una rete con un microchip potrebbe essere risolto, per cui non certo. Riesco a capire ancora il perché di questa non volontà di adottare un provvedimento estremamente semplice. Sì. Mentre a ulteriori assistenti o la terna allargata a 5 per quello che riguarda un certo tipo di situazione può andare bene. Non credo che potremmo avere particolari miglioramenti per quello che riguarda il fuorigioco, ma per una ragione semplice: sottoposto all'occhio umano c'è fallibilità. Sono per cui credo che possa essere un esperimento parzialmente positivo, però ancora una volta frenato non so bene da quale arcaico pensiero rivolto alla tecnologia. È vero. Tra l'altro hanno detto al board un anno di tempo ancora per continuare la sperimentazione tecnologica riguardo ai gol fantasma. Prima ne discutevo con Andrea Zorzi e si diceva nella pallavolo, cioè, tennis all'occhio di falco, nella pallavolo ci sono state sperimentazioni di questo tipo, ma sono sport in cui la palla picchia per terra. Nel sì. Calcio il problema è valutare il pallone quando è in volo. E tieni conto che nel tennis soprattutto si parla di un luogo che è il torneo e la città in cui si gioca il torneo, in cui puoi attrezzare quello spazio e tutti quanti hanno le stesse condizioni. Immagina i campionati di varie categorie dovrebbero avere la stessa identica dotazione, se no si gioca con regole diverse. Nella pallavolo i giudici di linea sono 4 ad alto livello, nelle categorie più basse solamente primo e secondo arbitro, però questo è in qualche modo una modalità. Per quanto riguarda la tecnologia bisogna garantire lo stesso trattamento a tutti. Esatto, tra l'altro Massimo, come abbiamo detto varie volte, su quella ad esempio del chip nel pallone i costi sarebbero abbastanza bassi, quindi molto più democratica come tecnologia rispetto a quella delle telecamere, no? Molto più democratica, Carlo, è molto più efficiente. Poi vogliamo dire il discorso di al limite teoricamente per andare a spaccare il cappello in 4 dove viene posizionato il microchip, se il pallone è completamente dentro o meno, ci sono delle vernici fotosensibili che vengono rilevate dai sensori, basterebbe ricoprire un pallone di una vernice fotosensibile in maniera che si potesse avere realmente la dimensione delle, diciamo, del passaggio totale rispetto alla linea di porta della palla o meno nel caso del gol. Però io credo che a questo livello, siamo nel 2011, cioè la tecnologia dei chip sia la più sicura in assoluto. Oltretutto potrebbe essere coadiuvata anche da delle immagini. Capisco il discorso che è stato fatto prima sul campo fisso, la palla che sbatte per terra, sia nel tennis che nella pallavolo, eccetera. però torno a ripetere, a me sembra una non volontà quella di adottare questo tipo di tecnologia, che come ripeto limiterei al gol, perché in questo caso sarebbe un 100% di sicurezza, certo. Per il resto il calcio, come tutti gli altri sport, sono basati, cioè basano le loro fondamenta istituzionalmente su errori, sia dei calciatori, sia degli arbitri, sia dei giudici, è chiaro. La perfezione non la raggiungeremo mai. Come abbiamo detto mai. Mille volte insieme, caro Massimo, nel calcio la certezza del diritto è qualcosa che non ci piace, che non è connaturata alla natura di questo gioco, quindi se si vuole la certezza del diritto per vari motivi, da oggi in giù o in su, allora questa è un'altra storia. Massimo, ti ringrazio, un abbraccio. Ci mancherebbe, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie a Massimo Chiesa. Andrea, non so se vuoi la certezza del diritto tu nello sport. Però mentre si parlava, mi è venuto in mente, potremmo trattarlo una delle prossime settimane. Dimmi. Quali sono quelle discipline in cui la tecnologia è arrivata a una tale precisione che noi assegniamo la vittoria, eventualmente il secondo posto, senza avere nessun riferimento umano? Pensa nello slittino, il millesimo di secondo. Lo vedi solo coi cronometri. Non lo vedresti mai a occhio nudo, ciò nonostante la vittoria viene assegnata per questioni esclusivamente tecnologiche. Al Foro Italico di Roma c'è il seggiolone con lo spazio per i 7 arbitri che una volta cronometristi, che con le mani segnavano. E adesso invece assegniamo vittoria, bronzo, argento, quarto posto per delle foto che vediamo. E quindi anche lì capire un po' quali sono gli sport in cui l'assenza di tecnologia permetterebbe di assegnare tranquillamente l'oro. Certo, ma poi ci sono anche altre discorsi che si potrebbero fare, perché tu sai benissimo che ad ogni Olimpiade si apre tutto il putiferio sui giudici della ginnastica piuttosto che dei tuffi, quindi non è solo dalle nostre parti che si litiga come dannati, come furibondi per la palla che è entrata o no. Peccato che anche oggi sia finita, caro Andrea. Finisce spesso troppo in fretta. Ci vediamo sabato prossimo? Me lo auguro. Mi auguro di sì. Grazie. Intanto. Ciao a tutti. Grazie a Andrea Zorzi, grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo domani dalle 4:30 lo sport, fino alle 7, poi 8:30, 9 basket.